Well, on your mark, you get set. Can't forget the go, go. In case you didn't know, the flow is. Like it's Christian, they wishing they was in my position. Dissing, I'm dismissing missions, but still, this hell attention. I'm the one they mention. Hey, hey, check, check, uno, do it. A, C, A, B. A, C, A, B. In this one for my brothers on right. Check, check, uno, do it. Check, check, brava. Sup, sup. All for other tyrants, they still trying, but can't find us a tyrant. Since 9-6, my mind's went through mind tricks. Others trying it with lying chicks. I'm lying with a dime sister, Mr. Miss hits. You're missing hits since your incense was lit up. You get crushed, this flow super deluxe. These hoes trying to get bucks, it's slow, shorty, good luck. My foes don't give a fuck. I know they living stuck, talking tough, yet they vivid when pretending about their trucks. It's just a little fickle how you mention dimes and nickels when you're driving rentals. Show you high in residential, use your mental. The odds against you. Is it a movie on my stencil? Got the more to diss you. Coincidental, I suppose niggas pose. I expose their tones. I'm a stone when alone and rip bones. Get sown, cause this flow gets souls and slip bones. Just know. Yeah. Just know. The illest flows. The realest flow. Hurt for words that are wrapped in love, so sure. Ride the waves, we surf till it claps. turning back the hands of time. I started working for cash, it was beautiful. The same type of dream as when you're high. Nah, fuck it. I can't explain away the feeling, had my heart rushing. Half something, half nothing. Half publishing, I'll pass part love and last bluffing. Last cuddle in a park, heart crushed as I'm rummaged in the dark for the answers, but us nothing. I felt I stripped myself to shreds with a butcher's knife. I took a nice wedge of the way she used to look at life. I'm writing in my book of rhymes. Dai erga, Serpenzeno, ultima colonna crew, DJ Dubstaff, a.k.a. Moebius Tomba, mani su. Un grosso casino per DJ Dubstaff, ultima colonna crew. Ehi, hey, ricordiamo che il concerto di stasera è streaming su Radio Onda Rossa 87.9. Try to take over the world. Hey, mani su. Buonasera a tutte e a tutti. Allora, ci serve una mano, perché veniamo da 4 ore di corteo anche noi. Una bella sgambata. È stato bellissimo, appassionante, però pure un po' più vicino. Soprattutto i compagni di Ned, li vogliamo tutti qui sotto, per favore. Allora, un applauso intanto a Maurizietto, Marris Gola, pugni in tasca, che ehi, beve pastissa a Marsiglia, mortacci sua. Dai, è forte! Ehi, ehi, ehi, manna, la DJ Doctaf! Chi sei? Non importa chi siamo, conta solo il nostro piano. Difficile che ci gestisce un booking sotto al palco di Ghost che si vince groovy. Dacci fruit di loop e vi facciamo Brooklyn. Sulle braccia niente boogie, notta taccia jungle boogie. Roma mezza GTA, mezza Call of Duty. Se sotto sti lampioni non ci smuovi. Per reparti mobili davvero vieni con gli arpioni per pescare mobili. Il cielo ti guarderà con occhi di satelliti e elicotteri. Te li ricordi in botti in cielo. Allora, ma ricambiamo un attimo. Basta quanti fili. Non puoi concepire i decezionali che abbiamo fatto in scelta di anticoncezionali. Puoi safari a piazza affari, caccia grossa, sommossa. Suona bossa nova con le tue ossa, balla samba sulla fossa del caramba, getta salma nella fogna. Vero? Punto di carogna come libertà di luce colo fa. Avvisionato della carta gialla, se che sulla IPA, nunca male. Che armato NADA, da fuori strada sta. Se la libertà non paga, non ha prezzo se dilaga. Lui dice, si va piaga, lui dice, si dismaga. Questa city che mi uccide mi te lascia solo noia paga. Non mi placa, pagami nell'anima che paga fonte anonima. È un'etera sincera di G.I. Droponica, distanza siderale dal fottuto militare. Distanza sulla tua coscienza per poterla sorvegliare. Ehi, hey, DJ Doctaf, ultima colonna mixtape. Deve alzare le mani, dai. Anticipa nell'hip hop. Niente svago, niente raglio, tu metti tabacco. Non ho il crew, furioso pazzo, cattivo ragazzo. Quando sul quadrante in serie sono quattro serpi sul palco. E la nostra riportati il casco. Beh, a fine show portavo selvaggio. Esci per il fuoco, non per rompere il ghiaccio. Bad religion, vestito nero e grigio. Non giro alla roulette della radio perché abbiamo la Tourette. Ci smerdiamo. E grazie. Oh. Hey. Poco poco era il tuo amore, tanto tanto invece al male, tanto tanto invece al male. Poco poco era il tuo amore. E questo lo dedichiamo ai nostri amici e compagni del collettivo Kalashnikov che sono qua sotto e suoneranno dopo. Grandi progetti in cantiere, un cantiere che basta votare il cantiere. Ehi, è vero, è vero che ogni epoca la musica che merita. La verità sorriderà chi medita sulla realtà se crepita, se fedita. La traccia non seguirla, il dedalo non è voglia. Arianna e Gioccarogna non salvarla. Sia le donne sia di questi pop che è diventato cinque per gli spot. Di che parla? Fusioni sotto fondamenta, l'entropia del mondo. Quando ti presenta il conto sarà un vanto per la gente, per la gente che ti ha spinto. Ultima MC non rapito, guarda questa luna, lascia perdere il dito. Che la punta, che la quinta disciplina sia la grinta. La consapevolezza che ogni via d'uscita è finta. Come una porta dipinta, quindi non affida il rap. la spinta per emergere, orbita colpito di immergere le parolaie antiche, come se coglie niche, sorride chi la coglie tra le foglie della vite. Quando compagni poi mi ricorda, fini con l'arma che come la corda tesa di una fionda resa, non è contemplata ora per l'ultima aurora, un'ultima colonna sonora, questa è carne, e senti come suona. Sulla roccia Islander, tale carne siamo solo carne, allarme banditi, siamo banchetti banditi, sentiamo, armiamo i fucili, click clack e doc taff e vinili. Prima Roma S, un nido di vespe, connette, Quadraro Preneste, noi coi P-Boy, Mutoid, fatevi talone, Sarpenzeno, intercettano l'Android, vuoi? Sangue detersivo all'ora dell'aperitivo, cerchi un pasto in paradiso, un passaporto pulito, impunito sputo sul tuo piatto di indulgenza, pensa, ci divido un muro che dà senso alla violenza, brindo alle viscere di un bimbo, che fierisce su uno sbirro, che fierisce in un minuto d'agonia, per la mia tripudio di poesia, sai perché? La strada non ti vuole, finché l'amor mio non muore. Oh oh, si sente? Così è così. Assoluti chi su un foglio, solo vent'anni che voglio, semi la mente o semi dal vento l'odio, aspetterò un germoglio, verrà con un rasoio in mezzo ai seni, strappandoti dal volto i sorrisi che le neghi. Assoluti chi su un foglio, solo vent'anni che voglio, semi la mente o semi dal vento l'odio, aspetterò un germoglio, verrà con un rasoio in mezzo ai seni, strappandoti dal volto i sorrisi che le neghi. Arrestano e buttano in gatta buia, rieducazione cavallo di Troia, rinserimento alla gogna, mentre distruggono l'uomo che sogna sorelle sepolte, sono già molte, della bella antica la stessa sorte, murate, vive dentro le celle costretta a guardare la luna trasparre, 100.000 guerre, 1.000 ancora contro di voi bastardi, le scintille al filo delle lame, se domani è tardi, poca luce fioca nella mia mano candela di cera, mentre cerco le risposte in fondo a questa polveriera, boom, mezzanotte e mezzo aspetto, l'ho ridò verdetto, verte ammonito, ultima colonna ti devasta il centro storico, a luna, sfuma nella bruma, all'ombra della luna, ma la sola cura son poesie per la sua bruna e suda di continuo, se dall'abiro poi nasce un respiro fino all'uomo che non contento dell'uva inventa il vino, dà voce al moscerino tra le mosche, in piazza cuoce il caldo arrosto sul tuo Porsche Boxster. Assogli chi nasce un foglio, solo vent'anni che voglio, semi la mento, semi dal vento l'odio, aspetterà un germoglio, verrà con un rasoio in mezzo ai segni, scappandoti dal volto i sorrisi che le neghi. Assogli chi nasce un foglio, solo vent'anni che voglio, semi la mento, semi dal vento l'odio, aspetterà un germoglio, verrà con un rasoio in mezzo ai segni, scappandoti dal volto i sorrisi che le neghi. Ehi, ehi, e sa pur tu le chamarade dell'Hexagon, ehi, on va da sé. Sulle frontiere come arraca, come brugheria alla migra, non mi appaga la tua vita, pigra e vaga, non mi sazia il tuo pane quotidiano, prova questa spezia, tu clini il piano e rotolo per inerzia, chiama Khalid, la caspa è tutta in fiamme, grida Yalla Shahid, blindato delle guardie in panne, quante barre a fomentarne il senso e farne ancora carne per cambiare il verso, freccia del destino avverso, penserò, ti porterò nella battaglia, griderò quel nome così buffo, guarda un po', ho shampoo le blue bone, fratello mio, magnate le mani, radice di una guercia brezza sopra i sette mari, immagina le loro schiere, cuccono le iene dalle fiere delle nostre schiere, è l'internazionale dello spettro senza nome, sogno di mille cose, chiama l'insurrezione. In fuga dal Quadraro su una bar, quanti semon sottofondi in abbat, fanno Serpenzeno, pugni in tasca, in pista nasca, rappa una battista, mixa grande me la marcia, e caspa, barman cacciami via ti prego, faccio una figaccia, a Rio senza reni su una spiaggia, nel rap sono un po' come mannaggia, già la Madonna messa, ultima colonna, messaggera, bassa creste messa, piega veste nera nelle resse, veste nera, veste teste, in estasi coi testi i nostri wave a doc, noi vostri si chiama Dylan Doc, toc toc, lo fai tu, la mia chi non bussa, sto con Morris Gola e nana mica buffa, tu metti un nero e dici uffa, logico la truffa più grassa dopo il cibo biologico. Ehi. Metti, caso che muoio domani, metti. Nato con un buco in mezzo al cranio, qua rimbalzano proietti. Lì di stato sto lontano da precetti, e chi stabilisce chi è sano e chi no. Ma cosa gli tocco a con... Rimanna la Vai, vai, scusa, scusa, no, c'ho ragione io, però la rifacciamo. Mandalo, aspetta, no, no, no, no, è una questione di principio, rimandala. Abbiamo detto, vai, vai, va bene. Va bene, ok. Ok, ok. Metti, caso che muoio domani, metti. Nato con un buco in mezzo al cranio, qua rimbalzano proietti. Lì di stato sto lontano da precetti, e chi stabilisce chi è sano e chi no. Che ne so, mischia flow barocco con il rococò. Preoccupo chi la co, occupo la base. Anche case delle banche, quante notti dove chiede, tra passati che ne so. Tipo cosa scrivere ai nonna. Setta di dannati, assettati che cadi. A 7 anni già più gradi in faccia che sul petto agli ufficiali non ti sciali. Fatti il supermarket invece di marchette da red carpet e poi vedeli al target. Sul divano inverno estate canne pesse nuggets. Tu ci spidi sulla base frate porta i bumpers. Rappa bestia sotto inchiesta voi in palestra bumpers. Sta nazione un cane sulla tomba del padrone. Il tuo sono un bluff, il mio mossa Kansas City. Ti tengo la distanza jet con i tuoi rifarditi. Tienimi i limiti pure dai al limite vai. Brutte verrughe da quando facevo crank car. Da quando ho preso lo sciure. Mille punture di vespe sciame. Dai il catrame rimesuture del tessuto spazio temporale. Le tue speranze vane nel va della coerenza del principio universale. Sta indietro come le palle del cane. Grazie regà. Ehi. Speaker G, H flow, macque dotti flow, volontè, dai pianerottoli dei lotti alle bagliecco, atti come gatti da cassonetti, lotti contro porci antropomorfi con gli elmetti dragonati, sto con chi resiste da Gazzacobani, parlo in brain su, le bassi mie c'è ben, che introduce così lo hanno, sta in ritardo, antidore ed ermellino, pregano un divino, vestito di lino, bianco ma, il nome del padre della figlia che brucia il banco, matte giarrettiera con semi automatica, l'era della city vuole mimesi, dono della sintesi, se non capisci non dirmisi, e ti che il mio rap mi volta che ti tocca il baffio la Gioconda Jordan sulle teste dei gendarme giorna vista verme in testa suona Marvin Minerva testa mille armi o col tempo che mi resta pensi le mandanti Bastardo t'ho bleffato, ancora me la rido pure se tu mai cucito labbra col filo spinato siamo provvisori come dove dorme un fuggitivo e come dove quando sono un obiettivo random kill di fango Django zitti d'amianto canta mia musa la rabbia diffusa di chi non accusa la sorte ma non forgia un bando chi non ha pianto mio chiamaranto e sa che la frutta lo regge soltanto chi non getta parola al vento rima volontè però non so le prima al volo te le dedico me le mangio scaccia medico perdi con la strada il dubbio del rischio cambia registro magistro con nubia sarà libertà per parlare per Cristo di sottofondo si dà questo ritmo nostalgia di un posto mai visto per davvero ultima colonna non ne fa mistero nella folla cerca un'alchimia opera al nero un colpo di coda che fraga l'acquario un colpo che sfuga ad ogni schedario e questo è Dottor Demis Produzioni ehi furia di cercarti, esploro le tue arti ovunque dove sei finita, dunque parti sulla scia del pentagramma o sopra i tasti neri e bianchi della gamma dei sorrisi, senza te non so che farci furia di pensarti, esplodono sinapsi collimano i collassi, cedono i miei passi farsi strada tra i rovi con calessi frenate da un esercito di rospi e ninfe in catalessi ho il lessico, ma un demiurgo l'ha disattivato risorgo per ogni mio sintagma ritrovato a ritroso sul selciato pericoloso inganno del fato uno spaventoso taglio del fiato ho un'illuminazione quindi credimi i pusillanimi lo leggeranno come un alibi in un lampo non è stato invano no niente è stato invano scardinare il tempo sopra quel divano. Delizia, portami nel tuo giardino arcano. Non importa chi siamo, conta solo il nostro piano. Mestizia, accompagnami, prendimi per mano. Nozze di rapaci nel regno millenario. Delizia, portami nel tuo giardino arcano. Non importa chi siamo, conta solo il nostro piano. Un volo di rondini, ordini interrotti dai dannati. Una sinfonia di fiati per ognuno dei peccati. Belli, regà. Mani super, Moebius Soppa. Ultima colonna, crew. Vengo a fare solo un pezzo. Sì, sì, sì, mandala. Quattro, certi senza l'aperto. Sono le 9:15 e a Parigi fa caldo. È strano, metà novembre e l'autunno non si sente. E solo per quel giorno c'è il sole che risplende. E c'è scompiglio in famiglia, ma era sicuro. E c'è una zia che vi sveglia, che è prematura, che da grande sarà un duro, proprio come lo zio Arturo. Come se potesse prevedere il futuro, ma fanculo. Sono cresciuto sano e forte, non ho mai avuto bisogno della sua sorte. Non sono certo un eroe, no, non mi chiamo al Jordan. Questo pezzo è la mia storia, tutto quello che comporta. Sai che l'hip hop è nato per le strade. Tornate nelle vostre case, state bene dove state. Io sto con la mia armata ad affilare le spade per la guerra contro il male che state per iniziare. Tempo di crisi, è bene, vi dici. E stasera tu che fai? Non vieni, dai, che ne dici? Tanto staremo ore a parlare dei nostri miti, tra il calore degli amici e l'odore di graffiti. Yo. Nel destro e ci metto tutto me stesso. E se sono troppo diverso è perché svuoto quello che ho destro. E perché sono fuori dal centro e calpesto fuochi che accendo. Spengo ogni vostro concetto. Questo perché vi detesto, un flow così vario da creare un divario tra quello che ho detto e ogni vostro concetto. Metto pausa ad effetto, al contrario del tuo intelletto. Ho un rap così complesso che nell'immaginario è messo accanto a un intervento a cuore aperto con il macchinario spento. Ho radici sparse ovunque, non l'ho dimenticato, ma ritorno. Tornerei comunque in ogni posto visitato. E voi dite che sono io l'inadeguato. Io dico che non riuscite a unire i punti sul tracciato. A 12 anni ho conosciuto la strada. No, no, non è che era voluto, ma me l'hanno presentata. E da gentiluomo che sono ho fatto la stronzata di provare a farla diventare la mia casa. Quindicenne, primi errori, prime trelle, primi amori, prime nottate fuori, stelle, primi testi, prima volta sul palco, prima volta, esci, cazzo, scopri il mondo e ritorna e si va per i 18, per la maggiore età. Io sogno di andare via dalla mia banalità, di essere il bravo ragazzo in una folle città. Sì, ma è già stato fatto, si da Kendrick Lamar. L'hip hop è nato per la strada. Sono pronto per la guerra con l'armata, quindi bada che la vittoria non è sempre assicurata. Quindi tocca dare il meglio in ogni cazzo di serata. E se credete che nasco nel privilegio, chiedetemi di Alberto e di tutto ciò che ho perso. Chiedete ai miei di Carlo, chiedetemi di Pablo e di Alessandro. E solo allora capirete del dolore di cui parlo. Dai, oh. Regà, mani super, Moebius Soppa. E scaricatevi il demo, VNR demo, Moebius Soppa. E scaricatevi il mixtape, ultima colonna mixtape. No, ho abbassato un pochetto qua, no, ho abbassato pure i casi perché da qua si impianta sino che fino a più. Davvero. Con l'acqua arancia mi devo fare i gargarismi. Come sempre nada, resto nell'anonimo. Suona questa cumbia tipo l'inferno degli Anonymous. Illogico, di su, solo quanto basta. Affetto sin da piccolo da furia iconoclasta. Chi mi cura d'assa, fame che non passa. Macchia nella resta che c'è sputa. Ultima colonna, vecchia baronessa decaduta. Tipo l'ultima dei colonna, fatta secca da una bacca di bella donna. La Madonna, balla la baciata col torrito. Tu veneno d'espa sulla barricata e scuccia. Serpe il seno, nada les. Morris go, giù serrin, salta fila. Cerchi la di sonno che ti sana, mai trovato la tequila. Giochi la balena nella bolla di un mixtape che ti rovina. Che poi il senso di ogni rima è rendi una minaccia al rap. Stile barricata swag. posso darti resti. Fatti un selfie mentre surfi l'onda d'urto dei miei versi. Vengo da casa, occupatemi, carate, muto e prestiti. Occhi, visti, rischi, se pesti piedi a chi ci dà dei terroristi. Qua c'è il deserto e sta bocca asciutta. Non mangi il dessert perché stai la frutta. Bestemmiamo Buddha, Bibbia, Corano, perché vengo dalla scimmia, quella che mi scuota l'armadio. Mano de Dios contro mosso se dico. Usate linee testa al posto dei beagle. Dico il tuo video, peccato se mi è uscito dalla trilogia di Jackson. Smigol. Grazie per l'invito, scavalcherò lo stesso. Alla tua festa non mi trovi in pista, chiuso al cesso, faccio un circolo edonista. Questa differenza tra chi sceglie e chi acquista. Bella regà, oh. Umane promettenti tutte in fila, fiere per catene più lucenti e cecchi. Cerca spazio nella storia, fa il check-in. Per il cielo e vola, quindi scrive c'è. Fini da qui sopra e me lo sbatto al cazzo. Il tuo scatto in graduatoria. Misuriglie superino e cospiriamo sottoterra. Tu per i tu sganci missili dal blueberry, così che gli ultimi saranno i primi marci miseri che mutili. Lacci ai bracci su troni di spade, ma non conta se facci il grado, spaccia le serate. Ma piacci TV, 20 minuti di gloria. Ma marci anche tu, servi tu volontaria qua. Taglia il personale, ma niente di personale. Se poi penso male, ma no. Per farvi del vali, modi no, manca no. E sa che in camera non ho il poster di Staganov. GH con la bocca impastata di merda. Descrivi irrinunciabile l'offerta. Pregustila, figlia di ogni mia giornata persa in posti angusti. La sciata scivolare sulla scia della tua farsa. Alzi il sopracciglio, mimi un'espressione incerta. Non vedi sotto il tavolo che tengo i pugni in verta. Certa gente certamente mette pezza. Sei un bugiardo che lo ammette, cambia il senso e la sostanza. No, mezza Bonton, anche no, nada. L'estrigon, dimmi, Truva Show, parlo, vandalo, pietra dello scandalo. Non cambierò mai in cambio, non resto a fare melma nello stagno del tuo baglio. Ho meglio da fare che intonarmi ogni toragli. Oh, se è pesante il mese ripropone come l'aglio. Non so quello che voglio, ma so ciò che mi fa male col cazzo che non lo so. Ehi, oh. Oh oh. Ehi, e questa è l'ultima. Fate un po' di casino, questa è Mara. Ehi, Mara il gringo. J-Duck. Ehi. Timber, JJ, Rock, Caster, Lestrigon, Latino, Bunchak, mica reggaeton, cine, città versus Hollywood, eccolo, brindo col vino tinto, sacreva un gringo, magari sopra un cingo, lato, ho il jingle del soldato arancio, a pranzo servito, carpaccio, la carne un po' dura col padellin, ciaccio, che faccio, assaggio e poi vomito, come ti dico, ottimo, io sto col Rambo, nostalgico del piombo e fango, fotte l'apatia di uno shampoo, di un signore a mia si stava meglio prima, quando, si girava con il ferro e senza documento, la Brasile, te non mi vedi come il vento muovi cinci. Le serate tu te gira, fate giro con l'incinci. La colla nel latex non puoi mettere la colla contro il mate. Vieni qua nella giungla Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di razzie. Shergan, canto furioso Orlando tipo Miriam, patta patta. Nel mio barrio grido, mira il gringo, matta matta. Ehi, vieni qua nella giungla Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di razzie. Shergan, canto furioso Orlando tipo Miriam, patta patta. Nel mio barrio grido, mira il gringo, mata mata. Vieni qua nella giungla Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di razzie. Shere Khan, canto furioso Orlando tipo Miriam, pata pata. Il gringo mata. I dei pende dalle carte, non la game, scoccia replay. Nerdy e lei muove droni come videogame. Lui si chiama Ray, come raggio che suo padre vide dalla faccia della sua Mary Jane. Cameriera diner, li vidi eyeliner. L'ingegnere all'MIT per un mondo cyber. Sai perché? Tempi bulli chiamano, manco uno spiraglio tra i cappucci di Guantanamo. Ma Ray ha un vicino che definirei scomodo. Urla nelle piazze che destino, non te lo fa l'oroscopo. Ogni parola un bosso, il popolo è un molosso. Ma riporta l'osso, bring the world home come Weatherman è certo. Non hai bisogno di un esperto per capire dove soffia il vento. E la prateria in fiamme, una pantera nera sopra un hammer delle guardie. Anthem, vieni qua nella giungla Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di razzie. Shere Khan, canto furioso Orlando tipo Miriam, patta patta. Nel mio barrio grido, mira il gringo, mazza mazza. Ehi, vieni qua nella giungla Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di razzie. Shere Khan, canto furioso Orlando tipo Miriam, patta patta. Nel mio barrio grido, mira il gringo, mata mata. Grazie, regà. Dai, dai forte. La furia, Kalashnikov. La furia e dopo Kalashnikov. Allora, innanzitutto dovremmo fare, prima di lasciarvi, gli auguri a Giulia, che è il suo compleanno, adesso è mezzanotte. Auguri Giulia. Ehi. E ovviamente ribadiamo la massima solidarietà a tutti gli imputati del processo Notav, del maxi processo del 3 luglio e del 27 giugno, e a tutti gli imputati e le imputate del processo del 15 ottobre, tutti i giorni 15 ottobre. Dai, è forte, raga. Demorna tem coladeira, deva ser cheio de amor, tem batu, tem funaná, espanhol nesse mundo fora, só rotima, deva por cheio de amor, demorna tem coladeira, deva por cheio de amor, tem batu, tem funaná, oi tanto soldar, soldar, soldar. I'm not a racist, I'm not a racist. ta. Oh, oh, oh, oh! Oh, oh! E se qualche buona anima ci porta qualche birra? No, anche fra un po', eh. Onda Rossa. Un ringraziamento ai fonici per la pazienza, la loro, eh. Bella Elfo. Bella. Vabbè, un'iniziativa nata così, con la condivisione di tutti e tutti. Fantasma, no. Che è un figo pazzesco. Dai. E a volte basta poco. E da Milani Kalashnikov. Dai, I'm sorry. Franco. E dichiariamo guerra alla disperazione e malediciamo quegli uomini e quelle donne che sventolano bandiere che non hanno i colori dei propri sogni. Bandiere da bruciare! Sentire il vento soffiare, soffiare da terre lontane, portare qua in casa con te, come che il silenzio il vento soffira, trionfi da mare sconfitti, soffira parole brucianti di notte e dolore, e pietre scagliate impregnate di grida su stelle cadenti, in un cielo di sangue, bandiere nel rago, madre le ideologie. Sentire il vento scandire i nomi di ogni soldato, e non è un colpo di mitra che brucia il silenzio, il vento sospira, trionfi da mare scoppite, e la parole brucianti di notte e dolore, e mentre scagliate impregnate di grida su stelle cadenti, in un cielo di sangue, bandiere nel rago, marte alle ideologie. Sospira parole brucianti di lotta e dolore, e pietre scagliate impregnate di grida su stelle cadenti, in un cielo di sangue, bandiere nel rago, madre! Thank you. dell'angoscia. Se cammina, gravogliati. Se sentieri dell'angoscia. Adesso vi facciamo ballare un po'. Sbattono all'interno dei posti occupati, perché solo cosa vuoi tu? Perché gli spazi occupati sono i luoghi in cui concerti come questo vengono meglio. Grazie ragazzi, grazie ai ragazzi dietro il mixer, grazie a chi ha cucinato stasera, chi ha organizzato, grazie. futuro. Poco la voce, mi dicono. Adesso si sente? E meno male. La prossima è una canzone d'amore e la vogliamo dedicare a tutti i ragazzi e le ragazze della Radio Orna Rossa e quelli che si sbattono per continuare a portare avanti in giro centri sociali e Do It Yourself e delle piccole etichette delle radio. Ciao Fantasma, questa canzone è per te. la forca del destino. Se lasci la presa, sai, non sarò io a cadere, ma tu adesso sei risucchiato dal buio magnete che sorregge le stelle, stacca i sogni dalla testa degli uomini. Regge le stelle, stacca i sogni dalla testa degli uomini. Indicando le stelle, stavo indicando il volume un pochettino più alto del mio microfono, grazie. Tre ore di soundcheck, che tale e quale. Un'altra canzone d'amore questa volta. Due riflessioni prima di questa canzone d'amore. La prossima canzone parla di amore in tempo di guerra. E potrebbe essere... due riflessioni su quello che è il concetto di amore. Amore in tempo di guerra, che potrebbe essere tra un uomo, una donna, tra due soldati, tra due disertori che si trovano a scappare insieme a condividere un'esperienza. Oggi a Milano c'è stato convegno in difesa della famiglia tradizionale per difendere l'Europa, con ospiti di eccellenza tra cui medici che vogliono curare l'omosessualità, tra cui l'autrice di un libro che si chiama Sposati e si sottomessa, che sostiene che il problema della società moderna sia l'emancipazione femminile. E un'altra forma di amore ancora. Dedichiamo questa canzone a Radio Possum, la trasmissione che va in onda su Radio Onda Rossa tutti i lunedì, che tratta di antispecismo. Anche quello è amore verso gli ultimi. E quindi, in questo sudicio mondo, in questo orribile mondo, quello che ci salva, quello che ci lega veramente, quello che rimane poi, sono i sentimenti che ci portano ad andare avanti ogni cazzo di giorno. Nere sono le cinghie dei fucili. Soldati che avrebbero presto trovato abbracciai sotto un cielo di fango, mentre le bombe cadevano. E soldati ci attrassero presto a trovarmi. Grazie mille, davvero. le mille sei lanze, di pietre scagliate, di fare preghiere. La guerra irlandese accesa abbastanza, la guerra irlandese accesa abbastanza. Allora, questa è l'ultima canzone che facciamo questa sera, poi vi lasciamo in La Furia. Vittoria, sì. Poi lasciamo in La Furia. C'è il nostro. Siamo reduci da un tour bellissimo, stranissimo, intensissimo tra Bielorussia, Lituania e Polonia. Un freddo. Non ho parole per descrivere il freddo. Durante il nostro concerto a Minsk, in verità non avevamo ancora incominciato a suonare, hanno fatto irruzione gli OMON, le forze di polizia paramilitare bielorusse, mimetica, passamontagna, tutti contro il muro, braccia al muro. Ci hanno tenuto un'ora e mezza per fare controlli e alla fine il concerto non si è fatto. Dicevano che cercavano fascisti, anarchici, droga e terroristi, cercavano qualcosa. Quindi, al di là dell'esperienza molto formativa, siamo tornati tutti acciaccati, con febbre e raffreddore. Quindi chiediamo scusa per la scaletta un po' ridetta. Poi abbiamo suonato in un garage comunque quella sera lì. Ero in un garage praticamente all'aperto durante una tempesta di neve. Come ragazzi, siccome qua siamo un gruppo anarchico, ma poi alla fine non... Cioè, le regole si rispettano sempre, no? Cioè, questo qua non è che sia un limite invalicabile, cioè potete salire. Potete salire un po'. Dai! Qui denti e parla la lingua del mare. quali del supermercato calano sul consumatore ignaro. Coi denti e parla la lingua del fuoco. Tania stappa una birra coi denti e parla la lingua del fuoco. Perfetto, è il più bello. Non è per cattiveria, ma il nostro batterista non sta bene, per cui adesso ci beviamo una cosa tutti insieme e ci godiamo il concerto della Furia, dai.